La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, puntuali come ogni sabato a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui su Radio 24, La Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi. C'è ingorgo nei cinema italiani, c'è ingorgo perché anche questa settimana sono 10 nuovi film che arrivano sui grandi schermi. Noi come sempre ne abbiamo selezionati almeno una metà, quelli che valeva la pena raccontare, però in questa puntata ci sarà molto altro, interviste, giochi come sempre insieme per vincere i Blu-ray e i DVD del momento. Parleremo anche di musical nella parte finale di questa trasmissione. Allora, cominciamo subito con un film che arriva dalla più recente mostra del cinema di Venezia. Si intitola Black Mass, lo interpreta Johnny Depp, ce lo racconta Chiara Pizzimenti. Allora, figliolo, ascolta attentamente quello che sto per dirti, perché la vita non farà che darti lezioni giorno dopo giorno finché campi. E dalle lezioni bisogna imparare, no? Non conta come fai, ma quando e come lo fai. E a chi lo fai o con chi lo fai? Se nessuno vede, non è successo. È la filosofia di Jimmy Bulger, gangster nato e cresciuto a Boston, pillole di saggezza criminale passate al figlio ancora bambino. Anni di prigione alle spalle, un fratello senatore e una fortuna fuori legge, costruita dalla metà degli anni 70, grazie alla violenza e a un accordo con John Connolly, agente dell'FBI, cresciuto con il malvivente. Do ut des. Il gangster dà informazioni sulla mafia italiana e come ricompensa i suoi affari prosperano, senza controllo delle forze dell'ordine. Prima mi dici che è un segreto di famiglia e poi me lo spiattelli così, boom. Facile, facile. E così oggi spifferi una ricetta segreta di famiglia e magari domani spifferi qualcosina sul mio conto. Eh? Le parole sono d'argento e il silenzio è d'oro. Le parole mi hanno sbattuto dentro 9 anni ad Alcatraz, è chiaro il concetto? Jimmy comanderà per più di 15 anni fra delitti efferati e sarà l'ultimo a essere preso, dopo le confessioni dei più vicini fra i suoi uomini e gli arresti degli agenti corrotti. La faccia, la voce, lo sguardo raggelante del protagonista sono quelli di un Johnny Depp che sembra Lucifero. Tanto il suo personaggio vive sotto traccia, tanto è teatrale la sua interpretazione, come già in Donnie Brasco e Nemico Pubblico, ma anche nelle sue parti leggere. Capelli, occhi chiari, gli occhiali a coprirli spesso. Lui ama trasformarsi e qui incarna il terrore, un'incarnazione che però non appassiona, come hanno fatto altri malvagi in passato, a partire da Scarface e dai Bravi ragazzi di Scorsese. Come non convince fino in fondo l'intera pellicola diretta da Scott Cooper, che pare ricadere nell'errore di Crazy Heart, che pur valse l'Oscar a Jeff Bridges. Bei personaggi, dal fratello Benedict Cumberbatch a Peter Sarsgaard, lasciati però soli, si dilunga ma non diventa epico, ricostruisce ma non fa entrare nella storia. Chi ama il genere lo può apprezzare, anche se qualche dubbio rimane nei primi che lo hanno visto. Molto belli i dialoghi, la storia cruda, senza molti fronzoli, e vabbè, Johnny Depp, interpretazione eccezionale. Sì. Un po' bello, però un po' complicato, cioè succedono un sacco di cose. Il film è molto bello, secondo me ripercorre in maniera molto realistica la storia che è stata, grande interpretazione di Johnny Depp, devo dire forse un po' lungo. Questi pareri fuori dalla sala per Black Mass. Noi salutiamo Boris Sollazzo che è in collegamento telefonico. Ciao Boris. Buongiorno Franco. Allora, ti era piaciuta questa carneficina di Johnny Depp? A me non era dispiaciuta, soprattutto per quanto riguarda la performance sua nel trailer che ci ha fatto sentire Chiara. C'è la scena della ricetta di famiglia che sembra una scena banalissima ed è invece forse una delle più epiche del genere gangsteristico. Sono d'accordo poi con la sua analisi sul fatto che sicuramente l'attore più grande del film, l'interpretazione più grande del film e forse anche il personaggio più grande del film. Scott Cooper ritrova esattamente quel difetto che diceva lei, sceglie belle storie, sa far recitare bene il suo protagonista, sceglie pure un bel cast, perché qui Cumberbatch è bravissimo, c'è un Sarsgaard che passa, ma è straordinario, però poi gli manca sempre qualcosa per comporre definitivamente il puzzle. Insomma, sembra sempre che sbagli qualche tassello e quindi che rimanga sempre un passo indietro. Allora, Boris, Black Mass, insieme a, come dicevo, tutti i film attualmente in programmazione in sala, concorre, diciamo, a questa bella quattro giorni di Cinema Days, che dal 12 al 15 ottobre porterà il prezzo del biglietto nelle sale cinematografiche di tutta Italia a 3 euro. Ecco, allora, io dico, se ci state ascoltando, portate un amico magari che da qualche tempo non va al cinema, qualcuno, un bambino, un ragazzo che non c'è mai andato, portateli al cinema, questa è una straordinaria occasione, fatevi una bella scorpacciata di film, perché a 3 euro per 4 giorni dal 12 al 15 ottobre è davvero una grande possibilità, ad esclusione ovviamente di eventi speciali e film in 3D, ma insomma si può svariare appunto da Black Mass a Poli Opposti, da Suburra a The Lobster, da Match Load a Life, insomma c'è davvero tutto quello che in questo momento è in sala può essere visto con 3 euro. E tra l'altro ne approfitto per dirvi che nel box office stagionale continua la battaglia fra i Minions e Inside Out, con Inside Out che piano piano sta recuperando posizioni, adesso è a 19 milioni e 7 globali, ma ancora molto attivo, contro i 22,9 dei Minions, molto meno attivi, e che invece per quanto riguarda questa settimana il film che è partito meglio fra le nuove uscite è Hotel Transilvania 2, di cui parliamo fra poco dopo la viabilità. Smau ti aspetta a Milano 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it vi presenta La Rosa Purpurea. Chi è pronta a volare? Io come un supereroe. Meglio, come un vampiro. È mezzo umano. Forse non è adatto a volare. Zitti, è così che imparano. Ti prego, no. E allora, pronti? Via! Ancora non vola. Volerà? Ancora no. Ce la farà. È alta la torre. Drac! L'ho fatto anch'io la prima volta. Sta arrivando troppo vicino a terra. Sapete una cosa? Non volerà. Tornano i simpatici vampiri di Hotel Transilvania, con Hotel Transilvania 2 che, come abbiamo detto, è partito subito bene nei cinema italiani e nel suo piccolo è diventato un cult anche per i bambini che lo cercano molto, questo film. Ancora una volta l'animazione di Gennady Tartakovsky è un'animazione vincente per simpatia, per tratto, per semplicità. Raccontiamo un po' la storia, Boris, di questo Hotel Transilvania 2 con la vampiretta e l'umano che si erano così visti e fidanzati e piaciuti, diciamo così, nel primo film, che si sposano in questo albergo pieno di creature ultraterrene mostruose del conte Drac. Abbiamo sentito la scena del primo volo del figlio Dennis, dove c'è anche da capire se è un umano o vampiro, diciamo che qui cambiano le sorti di questo precipitare che abbiamo ascoltato. Film, come dicevo, piace molto, lo cercano molto i più piccoli, però è un'animazione, direi, family, comunque un'animazione che riesce anche ad interessare i genitori che accompagnano i bambini al cinema. Sì, Hotel Transilvania incredibilmente dopo due film è già diventato una saga, nel senso che ha già un chiaro timbro creativo, artistico, visivo e soprattutto un registro di narrazione che è piuttosto unico, pur essendo un family. Il family di solito si basa sulle convenzioni, si basa su delle certezze. Hotel Transilvania in questo è un curiosissimo oggetto cinematografico, perché le certezze le crea e poi effettivamente diventano schemi, diventano stereotipi, ma sostanzialmente inventati lui, con tutti chiaramente i rimandi, insomma, che sono ispirati da grandi classici e da grandi archetipi narrativi. Diverte molto questo del Transilvania 2, perché tanto il primo era comunque una sorpresa, e qui in fondo c'è una variabile, no, del visto felici e contenti, che è come si vive felici e contenti, perché diamo per scontato che la favola finisca così, possiamo anche crederci perché ci fa piacere, siamo ottimisti, ma poi c'è la quotidianità della felicità e della contentezza. E la genialità di Hotel Transilvania 2 sta tutta là, nel non voler fare sequel propriamente detto, ma continuare nel racconto con una continuity serrata, di fatto, perché andiamo a vedere proprio quello che è successo subito dopo la fine del primo e riuscire a percorrerlo con quell'ironia del primo, con quella dolcezza del primo, sfruttando il fatto che si metta su famiglia per allargare le possibilità comiche e narrative e anche quelle visive, devo dire, perché chiaramente l'ibridazione dei generi in tutti i sensi, anche umani e vampireschi, aiuta nel disegnare cose nuove. E quindi alla fine devo dire che, a differenza di molti altri sequel, del Transilvania 2 è all'altezza del primo, è per tutta la famiglia e devo dire che secondo me anche a livello artistico è qualcosa in più di una buona animazione. Brilla, brilla, stella mia, scendi a farmi compagnia. Mamma, sono grandi per le ninne nanne. Cosa? Ma non dice così quella. Però così la cantano molte persone. Molte persone? Cosa non va di... Soffri, soffri, ti vorrei, dissanguato ai piedi miei. Zombie ti masticheranno, le tue braccia strapperanno. Soffri, soffri, infin vedrai, tu mai più respirerai. E allora questo era Hotel Transilvania 2, in America grandissimo successo, quasi 100 milioni di dollari nei cinema americani dopo lo strepitoso successo del primo episodio, segno che anche nella lotta delle saghe cinematografiche d'animazione Pixar piuttosto che DreamWorks c'è spazio per un'animazione alternativa che riesce comunque a mietere successi. Andiamo ora a giocare insieme, è il momento della prima traccia del film misterioso di oggi. Il fatto è che Tom non era tipo da sacrificarsi per la carriera di Ellen. E così se n'è andato. Era pazzo di lei. Solo che è uno che non lo ammetterebbe mai. Sì, lo conosco il genere. Siamo tornati indietro nel tempo, eh. Siamo tornati indietro un bel po' nel tempo. Se avete capito di che film si tratta, grande capolavoro del suo genere. Si parlava di genere proprio nella clip. La Rosa Purpurea, chiocciola, radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie di questo film che sveleremo la prossima settimana, ma di cui fra poco vi faremo sentire un'altra clip. Fra i film che escono in sala in questo weekend c'è un biopic, come vengono chiamati, c'è una biografia cinematografica che si intitola Janis, esattamente come Janis Joplin, film diretto da Amy Berg, che mette insieme insomma immagini che ricordano, riportano in auge quella che è stata una delle più grandi figure femminili del rock e di un'epoca, di quegli anni 70, in cui tutto sembrava permesso, in cui la musica di Janis Joplin era sicuramente una sorta di colonna sonora. Noi abbiamo raggiunto fuori da una sala il pubblico per sentire insieme alle suggestioni sonore e musicali di questo film quali sono le reazioni alla pellicola Janis. Get together and, you know, do heroin at these people's rooms. If you believe in magic, don't be afraid. Mi ha emozionato moltissimo. Non è un film che fa degli sconti a Janis, anzi insiste tantissimo sulla droga, però è la verità. Conoscevo già, ero già preparata a quello che avrei visto e non ha deluso le mie aspettative. Addirittura c'era anche molto più di quello che uno solitamente riesce a trovare su YouTube, magari. La storia di una donna, prima che musicista, una donna veramente mostruosa nel senso positivo del termine, se si può trovare un senso positivo, però io ce lo metto. Waiting for a train, and us feeling near as faded as my jeans. La straordinaria voce di Janis Joplin che mixava anche con grinta e con dolcezza insieme il country, il folk, ma anche il rock, figlio dei suoi tempi, biopic sì, ma documentario comunque sulla figura di questa cantante che non è mai poi stata negli ultimi anni tanto rivalutata. Boris, ti piaceva Janis Joplin? La Beh, per fortuna non sono così vecchio da averla vista, però l'ho sentita come un pazzo perché lo sono abbastanza i miei genitori e sì, tantissimo, quella voce grattata mi ha fatto a volte anche da perversa nina nanna, poi uno dice perché cresce male, giustamente, però donna straordinaria e tra l'altro questo documentario le rende onore proprio andando a pescare nelle sue fragilità, nel suo dolore e allo stesso tempo però raccontando la sua musica come pochi altri hanno fatto. C'è una cosa stranissima su Janis Joplin che emerge da questo film e che nessuno si poteva aspettare. Janis Joplin è stata una che ha dato tanto e ha ricevuto pochissimo, è stata ferita tantissimo e ha cercato di fare del bene nonostante avesse un caratteraccio, fosse completamente diversa da quel Texas che insomma l'aveva vista nascere e l'impressione è che tutte queste persone poi si riuniscano nel documentario per renderle onore troppo tardi, ma comunque per essere sinceri fino alla fine, quindi esce poi fuori un ritratto in cui si fanno del male anche coloro che parlano proprio per essere il più onesti possibili, per restituire non la rockstar drogata che muore di overdose, ma la donna fragile è piena di vita che forse è stata più sfortunata che imprudente nella sua vita e che era una straordinaria artista. C'è un momento in cui si racconta una canzone, una delle canzoni più belle, non ve lo voglio dire perché ve lo dovete godere, e di come nascono due versioni straordinarie e siamo proprio incredibilmente, perché c'è tantissimo materiale video, noi lo vediamo nascere nella sala prove, che è qualcosa di magico, soprattutto per chi ama la musica. Ecco, è davvero uno dei documentari musicali più belli che io abbia visto, non solo negli ultimi anni, ma forse nella mia vita. E allora, questo è il film Janis, una delle novità in sala di questo weekend. A questo punto noi diamo la linea alla regia, torniamo fra poco perché ci aspettano altre uscite e ci aspetta soprattutto Luca Argentero che ci racconterà la sua esperienza con il film uscito anche questo in questo weekend, Poli Opposti. Fra poco. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea, con un altro film che arriva in sala in questo fine settimana. Si intitola Life, lo dirige Anton Corbin, nel cast svetta per popolarità quantomeno Robert Pattinson, è un cast di tutte bellezze, Dane DeHaan, Joel Edgerton, alla nostra Alessandra Mastronardi. Sentiamo la clip. C'è un ragazzo che è interessante, la sua goffaggine è molto naturale, si chiama James Dean. Voglio fare un servizio fotografico. Io sono Jimmy. Io Dennis. Si sente nell'aria. Le cose cambiano. Nella musica, nell'arte, ovunque. Jimmy è tutto questo. Il signor Warner ti vuole, Jimmy. Stai al gioco qualche settimana ancora. Un bel respiro e sorridi. Io perdo me stesso nei miei ruoli. Non voglio perdermi anche in questa roba. Il problema è che tu pensi a me come all'oggetto della tua ricerca. È cambiato tutto così in fretta. Boris, questa è la clip di Life, la storia di un fotografo, siamo appunto nell'America degli anni appunto di James Dean, degli anni in cui il successo di Gioventù Bruciata, di film come La Valle dell'Eden, creano un mito che crea anche la sua propria autodistruzione. Robert Pattinson è stato accostato molto spesso per tipologia estetica, diciamo così, un po' ad alcuni sguardi di James Dean, e come dire, finalmente finisce dentro un film dove c'è James Dean, con quali risultati? Alla fine buoni, devo dire che poi c'è un pregiudizio negativo che alcune volte è quasi un riflesso automatico su Robert Pattinson per il modo in cui è arrivato alla notorietà e perché bisogna dire che in Twilight tra i due quello scarso era lui. È vero che, come ha fatto Daniel Radcliffe per staccarsi da Harry Potter, ha davvero costruito con fatica un alter ego che andasse completamente lontano da quel personaggio. Piano piano è migliorato, non mi sembra ancora un talento vivido, però comincia a costruirsi un'altra faccia, comincia a togliersi la maschera di dosso. Aiuta il fatto che se ne metta un'altra di maschera, che Corbin sappia davvero usare la macchina da presa come se fosse la sua macchina fotografica, quindi regalandoci una serie di immagini sì in movimento ma che sembrano quasi quadri. Aiuta l'approccio iconografico che denuncia già il titolo, Life, sappiamo che cos'è Life, insomma forse la rivista più inquadrata, nel senso proprio di messa tra, in una cornice di tutto il mondo. E poi si racconta una cosa che Corbyn conosce bene, cioè che cosa vuol dire essere divi, come si può vivere e anche forse morire di una fama che non si sa controllare e che soprattutto il mondo attorno a te non sa controllare, e cosa vuol dire l'intimità nel momento in cui probabilmente l'hai persa. Lui riesce a ricostruirla ogni volta che si inserisce o con l'obiettivo o con la macchina da presa, sa da una parte normalizzarle, dall'altra renderle tridimensionali rispetto alla bidimensionalità che appunto una rivista ti porta a fare. Allo stesso tempo racconta però anche tutta una struttura dell'informazione, del racconto, anche della struttura cinematografica, perché l'angolo Jack Warner qua è pazzesco, insomma. Forse i meno cinefili non si sono mai soffermati su quella figura, ma quella figura ha di fatto influenzato decenni di cinema, decenni di immaginario e anche devastato diversi sistemi nervosi di vari tipi. E quindi ripescarlo qua è molto molto interessante. Devo dire, è un buon film, ci servirà per mettere un tassello in più in una storia come quella di Pin, che invece spesso e volentieri è regalata alla fiaba, alla leggenda metropolitana e non alla storia del cinema e non. Quindi assolutamente da vedere in ogni caso. E allora, da vedere live, da indovinare invece questa seconda clip. Scusa, quando parte questo treno? Devo ritornare subito a Richmond. Questo treno non parte. Senti ragazza, io ho fretta, perché non mi aiuti? È molto importante. Beh, comunque non ci puoi salire su questo treno. I bomber hanno perso la testa, non lo sai? E allora qui c'è una traccia abbastanza individuabile, grazie a Gale, è stata veramente molto molto gentile nei vostri confronti per questa seconda traccia. Se non l'avete ancora provate a farlo. Di che film si tratta? La Rosa Purpurea @radio24.it per vincere una delle due copie del film che sveleremo la prossima settimana. Torniamo a parlare di cinema italiano, perché nelle sale in questo weekend arriva anche un film che si intitola Poli Opposti, un film di Max Croci, un esordio alla regia di un lungometraggio con Luca Argentero, Sara Felberbaum nel cast. Ascoltiamo la clip. Chiedo che la Corte disponga per un assegno divorzile di 50.000 euro. 50.000? Ma è matto! Mentire è la tomba del matrimonio. Firmi la separazione oppure ci vediamo in tribunale. Ma lei, stronza di suo, ha fatto un master. Questa è una iena. Questa non è la ragazzina che ti piaceva quando c'avevi 10 anni. Io ti faccio radiare dal lago, hai capito? Poli opposti. Suona carino come titolo. Si può sapere che cosa vuoi da me? Questa è la clip di Poli Opposti, la storia di una terapista di coppia, è la storia di due poli opposti, come dice il titolo, un terapista di coppia che si sta separando dalla moglie e un avvocato divorzista, madre con un figlio, da una parte chi cerca di tenere insieme le coppie, dall'altra chi praticamente le aiuta a dividersi, ma questi due poli opposti, come è inevitabile, si attraggono. E Boris, ti chiedo, si attraggono nel segno di una sophisticated comedy, che mi sembra essere un po' almeno l'intenzione di Max Croci? No, no, è l'intenzione ed è anche la realizzazione. Io adoro i film che mantengono quello che promettono. Magari è poco, magari in questo caso è una commedia sofisticata che ti fa sorridere, intenerire e ti tiene interessato alla trama, il giusto. Proprio cinema per coppie, secondo me, nel senso che è bello andarci insieme. È bello sorridere anche magari dei momenti di immedesimazione, anche forzati, perché difficilmente io potrò mai immedesimarmi in Luca Argentero per ovvi motivi, però al cinema italiano mancano tantissimo quei film medi. Noi facciamo diventare i film medi mediocri, sciatti, operazioni speculative per cercare di andare a pescare in generi che hanno avuto successo. E invece Croci fa un'altra cosa, Croci fa quello che facevano gli emuli di Cukor o di Lubitsch 60 anni fa. Cercano la bellezza, la cercano negli attori, la cercano negli oggetti di scena, la cercano nelle inquadrature. Partono da un soggetto molto semplice: un terapista di coppia, un'avvocatessa divorzista, tutti e due sullo stesso pianerottolo. Forse sono destinati l'uno all'altro, chiaramente è comico il vederli insieme, visto i lavori che fanno. è tutto molto semplice, ma proprio perché è semplice è tutto fatto molto bene. Non parliamo di un capolavoro della storia del cinema, magari ce ne fossero di film come Poli Opposti, che ti fanno passare 90 minuti sereno, divertito. Se avessimo più di questi film, il pubblico si sentirebbe più rispettato, andrebbe probabilmente di più al cinema e si farebbero più film, e quindi ci sarebbe anche tanto altro denaro per fare anche film d'autore più complessi, e per magari farlo fare proprio a Max Croce, che mi sembra uno che sa usare la macchina da presa molto molto bene. Assolutamente, tra l'altro hai toccato il tema, Boris, la gente andrebbe di più al cinema, e mi sembra il momento giusto per introdurmi con quelle che sono una valutazione, anche una posizione che prende il nostro programma rispetto a quello che sta accadendo a Milano. Nel giro di pochi giorni l'annunciata prossima chiusura del Cinema Apollo per far spazio al cubo magico di Steve Jobs dell'Apple Store questo dicono le indicazioni di stampa, ovviamente, in Piazza del Liberty a Milano, e poi anche il ridimensionamento dell'Odeon, che è un altro cinema storico di Milano con una programmazione sicuramente più popolare, più leggera, mentre l'Apollo è un cinema di grande qualità, l'ultimo polmone del cinema di qualità nel centro storico di una città come Milano. Ecco, due cinema che vanno bene, tra l'altro, quindi incredibile quello che sta succedendo. C'è anche una presa di posizione forte dell'Anica, che dice la notizia della probabile chiusura dell'Apollo e della riduzione di spazio del cinema Odeon a Milano per cambi di destinazione è drammatica. La sparizione di sale nei centri urbani non accompagnata dalla creazione di nuove multisale fa del nostro paese un caso unico in Europa, purtroppo in negativo. Ecco, io voglio ricordare ai nostri ascoltatori che sulla nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea, su Facebook appunto, andate, cliccate mi piace, trovate la petizione che è stata lanciata su change.org per sostenere il Cinema Apollo di Milano e per far sì che si possa ripensare una collocazione. Nessuno ha niente contro la tecnologia o contro l'Apple Store, ma insomma è evidente che il carico di cultura, di trasmissione di socialità e anche di vita vero, di presidio umano che si porta dietro un cinema nel centro storico di una città è imparagonabile a qualsiasi altra cosa che sia soprattutto un esercizio commerciale. Qui le cose stanno un po' precipitando. Ma sicuramente è vero, io i due cinema a Roma in cui sono cresciuto, uno è stato chiuso e poi per fortuna è diventato il Kino, quindi grazie a Dio è stato recuperato, ma solo per volere di una serie di associati, registi, sceneggiatori e via dicendo, e l'altro è diventato un bingo. Se noi vogliamo continuare a non fare comunità attraverso un'arte popolare come il cinema, se vogliamo continuare a far finta che sia solo un'industria, ovviamente dobbiamo fare quello. Poi, peraltro, il cinema vicino sotto casa mia probabilmente aveva una concorrenza eccessiva e non funzionava. Romano, che viene spesso a Milano, che l'Apollo dia spazio a Steve Jobs e non come film interpretato da Fassbender, mi sembra folle, perché era un cinema che andava benissimo, era un cinema bellissimo, era un cinema conosciuto anche fuori da Milano. Quindi io sono abbastanza sconvolto. Purtroppo è un trend drammatico che sta continuando da anni, che coinvolge tutte le metropoli italiane. Si sperava che Milano ne fosse esente, visto anche i nobili esempi del cinema messico e via dicendo, ma non c'è nessuna attenzione per la cultura, è sempre l'ultima risorsa. E questo è quel che riguarda appunto questa campagna. Sulla nostra pagina Facebook trovate tutto, ma noi siamo ancora in debito con i nostri ascoltatori, dobbiamo farvi ascoltare la voce di Luca Argentero per Poli Opposti, raccolta da Chiara Pizzimenti. Poli Opposti è una commedia romantica? Super romantica, è veramente chiara nei suoi intenti, vogliamo far sospirare i cuori. E da quello che ho visto, secondo me è un altro obiettivo centrato. È la stessa cosa di Noi la Giulia, quando uno ha le intenzioni molto chiare, ha un progetto preciso, lo porta avanti con convinzione, secondo me le persone lo recepiscono per quello che è. Sono sicuro che Poli Opposti sarà un bellissimo modo di sospirare d'amore. È un esordio alla regia? Sì, è un'altra opera prima di cui sono molto orgoglioso, in generale del partecipare a opere prime. Max Croci sono sicuro che beneficerà molto di questo suo primo film, perché è stato bravissimo. È una storia d'amore, sembra strano dire classica, perché i riferimenti di Max sono alla commedia anni 50, Howard Hawks, Cary Grant, Audrey Hepburn, quella cosa lì, insomma, quindi elegante, sofisticata, ed è la storia di un... Io sono un terapista di coppia, Sara Felberbaum è un avvocato divorzista tremendo, e diciamo ci incontriamo, abbiamo lo studio sullo stesso pianerottolo, quindi da lei le coppie entrano per divorziare, da me entrano per cercare di stare insieme, e ovviamente l'amore è destinato a scoppiare tra i due più improbabili. Luca Argentero al microfono di Chiara Pizzimenti per Poli Opposti. Non mi resta che salutare Boris Sollazzo. Ciao Boris. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora noi salutiamo Boris e andiamo a sentire come vanno le cose sulle strade. Fra poco ci aspetta qui Giulia Ottonello, grande protagonista del musical Cabaret. La rosa purpurea. Questa volta la fortuna forse mi assisterà. Questa volta finalmente non mi abbandonerà. La voce vellutata di Giulia Ottonello che apre la quarta parte della Rosa Purpurea. Come abbiamo annunciato, parliamo di Cabaret, parliamo del musical in corso di rappresentazione al Teatro Brancaccio di Roma fino al 18 di ottobre, e poi dal 12 novembre in poi al Teatro della Luna a Milano, a Sago. Giulia Ottonello è con noi e la saluto. Ciao Giulia, benvenuta alla Rosa Purpurea. Buongiorno a tutti. Allora, il brano che abbiamo ascoltato già ci dice molto, insomma, della tua vocalità, e però anche di un ruolo che è molto molto legato all'immaginario cinematografico. Insomma, con questo ruolo una signora chiamata Liza Minnelli ha vinto l'Oscar, e quindi, come dire, ruolo sicuramente molto impegnativo in uno spettacolo molto impegnativo, in uno di quei musical che hanno saputo mettere substrati, no? Cioè c'è la lettura musicale, ma c'è anche il dramma della guerra, la tragedia del nazismo dietro questa storia. Ecco, ti chiedo questo: come ti sei approcciata e quanto è stato comunque importante per te il film al di là dello spettacolo? Intanto Cabaret è un titolo che adoro da tempo, e è un film che ho amato, che amo. Questa nuova edizione, diciamo, di Cabaret si ispira molto di più alla versione teatrale, prende molto più spunto anche al romanzo Addio a Berlino di Hirschwood, e quindi forse è un pochino più crudo, un pochino più duro, un po' più vero di quella che fu la meravigliosa versione cinematografica e storica, dove alcune cose forse erano state anche leggermente edulcorate. Rimane comunque irraggiungibile, ovviamente, e inimitabile la grande signora Liza Minnelli. Per me è stata di grandissima ispirazione, e conosco praticamente a memoria il film, però ecco, Liza rimane Liza Minnelli, ecco. Assolutamente, così come Bob Fosse, che fu regista del film, ma che è stato anche uno dei più grandi coreografi in generale, e anche del musical, rimane Bob Fosse. Ecco, quanto vi siete portati dietro nello spettacolo di quelle coreografie? In realtà praticamente nulla, perché questa volta è stato richiesto uno stile che non fosse Foss. E mi permetto di dire, piccola parentesi, che a me piace molto lo stile Bob Foss, è molto forte. Senti, come sta reagendo il pubblico dopo le prime rappresentazioni? C'è un pubblico che tu capisca, insomma, dal palco, c'è un pubblico pronto a raccogliere anche i rivoli un pochino meno evidenti di questa storia? Io penso che Saverio Marconi e la Compagnia dell'Arancia questa volta più che mai siano stati coraggiosissimi, perché è un allestimento davvero essenziale. È un pugno allo stomaco questo spettacolo, per la storia che è, che laddove non arrivano, diciamo, tutte le parti articolate delle varie vite dei personaggi, purtroppo subentra poi quel momento storico terrificante, e quindi il pubblico soprattutto in questo circuito di teatri spesso abituati a vedere spettacoli molto esplosivi, pieni di numeri da show, in cabaret ci sono, però poi c'è anche un altro risvolto che probabilmente il pubblico si aspetta un po' meno, quindi stiamo notando però che il pubblico rimane parecchio colpito, per non dire scioccato. Giulia, grazie per essere stata qui con noi alla Rosa Purpura, e ricordo ancora, al Teatro Brancaccio di Roma fino al 18 di ottobre c'è Cabaret, e poi dal 12 novembre a Milano al Teatro della Luna di Assago si continua con questa straordinaria storia sempreverde che appunto ritorna sui palcoscenici anche qui in Italia. Grazie ancora Giulia Ottonello. Grazie mille a voi, grazie. E allora, con Giulio Ottonello e con Cabaret, noi siamo arrivati nella zona del nostro programma dedicata all'home video, dedicata ai film da recuperare a casa fra Blu-ray, DVD e televisione, ed è in collegamento con noi Ilaria Feole di Film TV, che ha sostituito, e sicuramente ci abbiamo guadagnato in termini estetici, Giulio San Giorgio. Sto scherzando ovviamente. Ciao Ilaria. Ciao, tutto Franco, bene? Grazie. Sì, tutto bene, grazie. Senti, no, Giulio adesso poi sicuramente mi manderà un SMS minatorio, però detto questo si offenderà a morte. Allora, noi parliamo invece di film da vedere in casa, cominciando con il risolvere, il nostro game della scorsa settimana. Non mi tiro mai indietro davanti a una sfida onesta. Ah, davvero? Ci siamo. Fisica. Bene, allora se lo sollevo io regnerò su Asgard? Sì, certo, probabilmente no. E allora, si trattava di Avengers Age of Ultron, l'ultimo in ordine di tempo capitolo della saga degli Avengers. Lo hanno indovinato per primi Mukeba Kalembua di Sestu, provincia di Cagliari, e Massimo Risso di Genova. Saranno loro a ricevere a casa il Blu-ray di questo film. Ilaria, raccontaci un po' quali sono i contenuti di questa edizione on video. Certo, Age of Ultron, che è l'ennesimo capitolo di questa invasione massiccia di Marvel nei confronti delle sale cinematografiche, invade adesso anche il campo dell'home video con un'offerta effettivamente corposa, quindi oltre al DVD c'è il Blu-ray in versione 3D e lo Steelbook, edizione a doppio disco, in cui ovviamente nel primo disco troviamo questa nuova avventura dei Vendicatori tutti uniti, quindi Thor, Iron Man, Hulk, Capitan America, Vedova Nera e Occhio di Falco, in questo caso contro il temibile Ultron, un'intelligenza artificiale apparentemente invincibile. Nel secondo disco c'è una offerta non ricchissima di extra, però piuttosto interessanti, soprattutto per i cultori del regista Joss Whedon, il commento sottotitolato in italiano di Joss Whedon al film, e anche una featurette sui set del film dal titolo Un'avventura globale, in cui scopriamo che uno dei set principali è italianissimo, è il forte di Bard in Val d'Aosta. Stento a credere che ci siano dei cultori addirittura di Joss Whedon. Di Joss Whedon. Però la vita è fatta così, sicuramente ci sono dei cultori di Elio Petri, che invece passa in televisione su Iris il 14 ottobre, mercoledì alle 11:05 del mattino, con Buone Notizie. Esatto, Buone Notizie, dal titolo di lavorazione La personalità della vittima, è noto anche con questo titolo e forse è poco noto rispetto al resto della produzione di Petri. È la storia di un omino grigio e anonimo che lavora per una società televisiva, abituato a vedere sul piccolo schermo ogni tipo di tragedia e di dramma, che viene contattato improvvisamente da un lontano amico che non sentiva da anni, e questo amico sostiene di essere minacciato da misteriosi sicari, di essere certo che sarà vittima di un attentato, e tenta disperatamente di convincere questo amico anonimo, che resterà senza nome per tutto il film, di convincerlo che la sua vita è in pericolo e che è minacciato di morte. L'ultimo film di Petri possiede lo stesso sguardo cinico e grottesco della produzione del regista, è datato 1979 e restituisce un ritratto di un'Italia satirico ma al netto di ogni risata, molto amaro. È una farsa tragica in cui le risate vengono meno e resta un ritratto devastante del declino morale e culturale dell'Italia dell'epoca, tutto visto attraverso il piccolo schermo e i drammi catodici che passano di fronte agli occhi insensibili di questo protagonista, che è un grande Giancarlo Giannini. E allora, queste Buone Notizie di Elio Petri, mentre venerdì 16 ottobre alle 21 su Iris, sempre su Easy, c'è Burn After Reading, A prova di spia, dei fratelli Coen. Ecco, qua magari ridiamo invece un po' di più. Bernadette Reading è la storia di Osborne Cox, un pessimo agente della CIA che viene licenziato con una scusa banale e per occupare il suo tempo libero scrive un memoriale della sua vita dentro e fuori la CIA, e questo memoriale finisce in modo bizzarro tra le mani di due perfetti idioti, due personal trainer interpretati in maniera eccelsa da Francis McDormand e Brad Pitt, che credono di avere per le mani informazioni top secret del valore di milioni di dollari e tentano quindi di rivendere prima alla CIA, poi ai russi, insomma, tutto questo per ottenere che cosa? Un'operazione chirurgica per Francis McDormand, che vuole farsi la plastica. La parodia di uno spy movie assolutamente demenziale, in cui i Coen si prendono gioco di tutto e di tutti, della CIA, dell'America, di un mondo popolato di idioti, che è quello che troviamo in quasi tutti i loro film, costruendo una farsa assolutamente esilarante, in cui una serie di attori, oltre ai citati, aggiungerei anche John Malkovich e George Clooney, si mettono alla berlina in maniera assolutamente spassosa. E allora l'appuntamento con i fratelli Coen e con Bernadette Reading è venerdì 16 ottobre alle 21 su Iris. Grazie a Ilaria Feole di Film TV, ci sentiamo la prossima settimana con la redazione del nostro settimanale amico, ne parleremo fra 7 giorni qui alla Rosa Purpurea, come sempre il sabato alle 18, tutto il cinema che c'è.